la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, 16, 29 primi e 59, anzi no, 30 primi esattamente in questo secondo. Oscar Giannino vi augura un buon inizio di settimana, per chi non mi ha ascoltato anche stamattina, in questo lunedì 29 di maggio, dagli studi di Milano vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricordo l'indirizzo come sempre, la versione di Oscar che ho sulla radio24.it. E vi dice di che cosa parliamo oggi, non tanto per farvi telefonare, ma se volete telefonare comunque e siete per esempio impegnati in una delle tante strutture sociali o anche sanitaria il cui compito è esplicitamente volto o comunque anche volto all'assistenza ai bambini in difficoltà, questa è la puntata, perché la puntata è dedicata a questo tema sotto lo spunto va offerto dal fatto che il quotidiano La Stampa, secondo me molto meritoriamente, andando al di là dei temi della cronaca politica internazionale, italiana, l'elezione, la legge elettorale, ecco, il quotidiano La Stampa secondo me si sta distinguendo in maniera che a me piace molto, naturalmente è un'opinione personale, perché dedica quasi ogni giorno due o tre doppie pagine a uno dei temi che apparentemente non dominano nel dibattito pubblico, mobilitando due, tre, quattro giornalisti della propria redazione con un lavoro che va avanti per più giorni su uno però dei temi di fondo della società italiana. Ecco, oggi i lettori della Stampa lo sanno, ma siccome poi la distribuzione geografica e la lettura è molto concentrata nel nord-ovest, gli altri no, a pagina 10 e 11 del quotidiano diretto da Maurizio Molinari c'è uno di questi approfondimenti che io ho trovato molto molto interessante, dedicato esattamente a che cosa istituzionalmente il nostro paese riserva al problema dell'infanzia nel nostro paese. Perché? Perché il problema dell'infanzia nel nostro paese è diventato, nella crisi, nell'aumento dei livelli di povertà assoluta e relativa, nell'aumento della distribuzione dei redditi nel nostro paese come effetti della perdita di reddito pro capite in tutti questi anni, un problema che dalla media, sia pure su posizioni non molto in alto nelle graduatorie internazionali dei paesi OCSE avanzati, ci ha fatto scendere e precipitare verso il basso fino a una propria vera emergenza di cui dovremmo occuparci molto molto di più, perché i numeri, stiamo parlando di 5 milioni e mezzo di bambini e ragazzi sotto i 15 anni che vivono in aree ad alta pericolosità, ma quella è la pericolosità sismica e questo non vuol dire molto, ma il problema è che 1,1 milioni vivono nel sottogruppo italiano di coloro che sono considerati a povertà assoluta. Povertà assoluta significa che rispetto alla cifra di reddito che l'Istat varia, naturalmente cambia da parte a parte d'Italia perché la parità di potere d'acquisto non è la stessa, come quella che al di sotto della quale non consente di vivere in maniera dignitosa, in maniera dignitosa significa essere a rischio sull'alimentazione di base, sul riscaldamento, sull'avere una casa in maniera tale da poterne pagare l'affitto e così via. Ecco, 1,1 milioni di ragazzi sono in condizioni di povertà assoluta. Al sud la povertà assoluta colpisce il 10,9% delle famiglie con almeno un bambino, ma al nord siamo comunque all'8,6%. Da questo punto di vista, quindi, significa avere che un minore su tre è a rischio povertà ed esclusione sociale, che più di uno su dieci nel nostro paese non può permettersi di praticare sport, frequentare corsi extrascolastici. E quindi tutto questo descrive una condizione di grandissimo allarme che ci dovrebbe occupare molto di più, sia nel dibattito pubblico che poi di fronte ad alcuni problemi. Alcuni problemi che sono: abbiamo una gerarchia ordinamentale di cooperazione istituzionale dalle politiche nazionali alle regioni fino ai comuni, su cui poi ricadono le competenze degli interventi sociali, che coopera fattivamente su questo obiettivo. Uno, due, le risorse. Come stiamo messi come risorse mobilitate per queste finalità, al di là del fatto che poi gli interventi non siano coordinati? Perché la risposta alla prima domanda è no, non sono coordinati. Abbiamo un welfare da questo punto di vista a macchia di leopardo, e dal punto di vista della seconda domanda dipende purtroppo dalle risorse che poi le autonomie possono dedicare, visti i loro bilanci, a queste finalità. Non ci sono solo questi due aspetti, ce n'è un terzo, perché naturalmente nel caso di minori significa anche avere a che fare con le competenze del diritto di famiglia, conflitti tra genitori che diventano ancora più diffusi in percentuale tra coloro che sono a basso reddito, quindi affidamenti fuori dal nucleo familiare, sia di fronte a condizioni di rischio sull'esercizio equilibrato della potestà parentale, sia perché magari post separazione e divorzio manca il reddito per il pagamento dell'assegno di mantenimento e in quel caso quindi bisogna intervenire per l'affidamento in comunità. Ecco, c'è un problema molto complesso nel nostro paese che riguarda una quantità di bambini molto molto elevata. Allora, e qui finisce la mia introduzione, la cosa positiva secondo me della stampa è di aver fatto parlare in tutte le regioni in cui operano i garanti per i diritti dell'infanzia, dal nord al sud, testimoniando le diverse situazioni con cui ci si trova a confrontarsi. Ci sono poi situazioni particolarmente terribili quando parlano i garanti delle regioni del sud, trovate nel taglio basso di pagina 11 della stampa un articolo su Gioia Tauro, quei ragazzi che crescono tra i rifiuti, e qui si parlano di situazioni in cui addirittura uno su quattro è senza soldi per i pasti, e si pone anche il problema di quello che con tutti questi limiti ordinamentali di finanza pubblica riesce a fare la Commissione parlamentare per l'infanzia, che è, diciamo, l'osservatorio del Parlamento chiamato proprio a tentare di incalzare i governi di volta in volta su questi temi. Allora, iniziamo questa riflessione proprio partendo dall'alto, dall'apice, per così dire, dei poteri del nostro paese devoluti a questa questione, ed è con noi la vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, Sandra Zampa. Buon pomeriggio e grazie. Grazie a lei e buon pomeriggio anche agli ascoltatori. Allora, che cosa abbiamo imparato? Perché in questi anni, se uno legge le testimonianze rese dai garanti nelle regioni, capisce che i garanti hanno poche risorse, una estensione di poteri incredibile, perché sono i terminali ultimi di tutti i tipi di segnalazione, pochissimi poteri di intervento. E naturalmente le autonomie hanno le loro ragioni, da una parte per difendere modelli di intervento diversificati e dall'altra per dire non ci sono i soldi. E quindi voi? Un tema che per me è stato di fondamentale importanza, è talmente vero che nel 2013, quindi da poco partita una legislatura, come lei ricorderà, molto complicata, partita con qualche mese di ritardo, la prima deliberazione che la bicamerale fece su richiesta mia e di alcune altre colleghe, fu proprio di avviare un'indagine conoscitiva sulla questione della povertà minorile. Perché abbiamo cominciato da lì? Perché nel corso degli anni che avevano preceduto appunto il 2013, quindi già dal 2011, molti indicatori ci stavano dicendo che le cose andavano male. E l'indicatore che faceva più, che ci sorprese di più nel 2013 fu in occasione di un'audizione con l'allora viceministro Cecilia Guerra, la quale ci fece presente che il divario tra nord e sud andava diminuendo semplicemente perché a nord peggiorava la situazione. Quindi una cosa di una gravità estrema. Però il punto di partenza è che non avevamo un database relativo proprio alla condizione dell'infanzia nel nostro paese dal punto di vista reddituale. Uno dei problemi più gravi del paese, in realtà non riguarda solo la povertà la povertà minorile e i minori, però dei minori certamente il primo problema è quello di raccogliere i dati in modo omogeneo. E il mio, ovviamente noi siamo molto soddisfatti del fatto che il governo finalmente sta lavorando a un database sull'infanzia. L'altro problema che secondo me dovrebbe partire, sia pure nella fase ancora sperimentale, perché poi ovviamente quello che conta è continuare a arricchirlo sistematicamente di dati da parte delle autonomie dei comuni, però dovrebbe partire da gennaio prossimo al Ministero del Welfare questo archivio telematico. Eh ma è una cosa fondamentale, importantissima. Ogni volta che noi vogliamo sapere qualcosa, lei scoprirebbe che si annaspa intanto in una situazione disomogenea nei criteri. Nei criteri identificativi. E quindi, questo produce dei grandi pasticci. Nell'altro addirittura lei ha citato giustamente i garanti a cui è stato finalmente, vorrei dire, dato effettivamente data voce, però ci sono delle regioni dove non c'è neanche il garante dell'infanzia dopo anni di lotte, di battaglie, e siccome lei giustamente, e la ringrazio molto di averlo fatto, ha lamentato il fatto che non hanno risorse, hanno scarsità di tutto, le dico anche che in molte regioni si è anche tentato di tornare indietro, cioè dove si era istituito il garante per l'infanzia si è tentato di ricondurre a un'unica figura garante di tutto, dal garante dei detenuti al garante dell'infanzia. Questo in nome di una, mi permetta, stupidissima concezione delle risorse, della gestione delle risorse pubbliche. Perché in realtà se noi non conosciamo bene i problemi, sbagliamo nelle risposte, o le risposte arrivano troppo tardi o sono sbagliate, e quindi in realtà lo spreco di risorse è molto più grande di quello di avere invece delle figure di riferimento e comunque delle istituzioni che funzionano. Passo al punto successivo. Uno dei punti più delicati, ed è una battaglia che non si vince, ahimè, è quella di fare comprendere che occorre che il governo si doti di una figura unica di riferimento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Perché? Perché l'infanzia e l'adolescenza attraversa tutte praticamente le competenze e tutte le responsabilità del governo. Un po' se ne devono occupare l'interno, penso soprattutto in questo caso ai minori stranieri, ai minori migranti, un po' se ne occupa le politiche per il lavoro, un po' attraversano la sanità, un po' ovviamente la ricerca e la scuola. Il che produce una dispersione straordinaria, cioè non c'è una cabina di regia. Quando uscì il documento conoscitivo della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, fui io la relatrice di questo documento, era un documento di una gravità estrema, e qui arriva un altro punto. In realtà noi negli anni, pur essendo stati da questo punto di vista un paese molto sensibile e anche molto capace di innovazione, di un pensiero anche importante sull'infanzia e l'adolescenza, stiamo via via perdendo attenzione e sensibilità. Guardi, si parla dei ragazzi e dei bambini e delle bambine quando ci sono storie trucide, quando ci sono cose scandalose, e poi appunto passano paginate sui giornali che ci dicono che i nostri bambini rischiano di diventare poveri, di cadere in povertà assoluta o anche in povertà relativa. Per esempio, la povertà educativa è uno dei capitoli di questa povertà relativa ed è un capitolo anche questo qui importantissimo per un paese che voglia essere intelligente, perché escludere i bambini dalla possibilità di scuole importanti, scuole formative davvero, di percorsi che ti portano a sapere, significa privarli anche del futuro, non solo del presente, in quanto minori, bambine e bambini, ma privare loro del futuro e il paese di una classe dirigente davvero competente, perché noi nell'indagine abbiamo preso atto che ci sono famiglie dove non si riesce più a regalare due libri in un anno, dove ci sono bambini che non hanno mai fatto una gita scolastica e non conoscono nulla del proprio paese, che non sono mai entrati in un teatro, che non hanno mai ascoltato un concerto. Io devo dire che c'è una cosa, però, che io devo, faccio la domanda in questo caso non solo, diciamo così, dire, alla vicepresidente della Commissione parlamentare, la faccio anche a Sandra Zampa per il suo profilo politico e culturale. Perché da una parte mi colpisce che in un numero così elevato ancora di regioni non ci sia il garante di cui stiamo parlando, quello per i diritti d'infanzia, è stato introdotto nel 2011 in Italia, mancano ancora in Abruzzo, in Sardegna, in Valle d'Aosta, però attenzione, anche in Toscana, in Sicilia c'è l'ufficio ma non c'è il garante. Ma la cosa non è tanto questa, perché magari ci sono appunto le ragioni che ha citato lei. La cosa che colpisce me è che in un paese in cui, e non è una critica, è un'osservazione storica, le culture politiche dominanti, da una parte quella popolare cattolica, dall'altra quella socialista, in realtà sia pure con accenti molto diversi, facevano della, tra virgolette, famiglia il nucleo fondamentale di integrazione del reddito, eccetera, eccetera, anche del consenso politico e così via. Ma insomma, i figli, i ragazzi, eccetera, erano da sempre uno dei luoghi più battuti per ottenere, per fare le politiche della famiglia, insomma. Anche nei momenti in cui l'ordinamento è cambiato, il divorzio, eccetera, eccetera. Allora, com'è che poi improvvisamente negli ultimi 15 anni, 20 anni, e soprattutto poi ancora in più in questi anni di crisi, ma è avvenuta prima questa frattura nella sensibilità della politica italiana, i bambini, i minori, in realtà non sono più diventati la priorità? Glielo chiedo proprio in termini di cultura politica. Come mai? Le do una risposta molto volentieri. Le potrei dare una risposta, diciamo così, superficiale in fondo, che è quella che noi di questi anni ne abbiamo governati pochissimi, e posso assicurare, quando lei dice noi, naturalmente lo dico a chi non lo sapesse, sta parlando del centro-sinistra. Ok, sì. Le posso dire però di certo, e vado a verificare i tagli alle risorse destinate all'infanzia sono stati bipartisan o sbaglio? No, stati fondamentalmente solo da una parte. Però fondamentalmente prodotti dal governo che ha fatto seguito al governo Prodi. L'ultimo grande piano di investimenti per l'infanzia del governo Prodi, e le voglio ricordare che il governo Prodi aveva un ministero per la famiglia che era guidato da Rosi Bindi, e che questo ministero strappò con le unghie e coi denti, perché credo che la Rosi Bindi abbia davvero picchiato i pugni sulla tavola all'epoca, strappò il denaro necessario, le risorse necessarie a un piano per gli asili nido. Allora lei mette, e la seconda osservazione che le voglio fare, ed è importante, è invece sul piano squisitamente culturale e delle politiche sociali. Mettere il minore, considerare il minore soltanto come un pezzo della famiglia, è un errore. Naturalmente è fondamentale. Però non è solo così, certamente. Se lo dicono talmente tanti dati che i minori nel 2014 in questa ricerca, che erano a rischio davvero di esclusione sociale, erano il secondo, i terzi, cioè i figli di famiglie più numerose, quindi dal terzo figlio in più cominciava, parliamo del 2014, e la situazione è venuta peggiorando, erano quelli a rischio di esclusione, quindi le famiglie restano centrali. Ma se noi non consideriamo, non cominciamo da... Aspetti, perché noi, io ho l'obbligo di comunicazione di servizio sul traffico, e riprendiamo esattamente di qui. Le volevo fare solo un'obiezione. Mentre è un fatto quello che ha detto lei sul governo Prodi, la mia controobiezione, per quello dicevo bypass, è che in questi 3 anni, quelli in cui, come stava dicendo adesso, di cui riprendiamo, c'è stato l'acutizzarsi incredibile del problema dei minori in famiglie di povertà assolute, e lì ho visto i bonus a tempo. Io sono uno di quelli che ha criticato nei 50 miliardi di bonus complessivi il fatto che non ci fosse invece una concentrazione su priorità per chi aveva meno nei bonus a tempo. Ecco, questa era la mia aggiunta come osservazione, ma riprendiamo di qua tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati a parlare di un paese che così non si occupa del fatto che un bambino su 20 tra 1 e 15 anni, oggi in questo paese, un bambino su 20 nell'intera corte anagrafica non riceve un pasto proteico adeguato giornaliero. A me sembrano percentuali terrificanti. Allora uno dice: come mai? Abbiamo ripercorso la complessità della geografia istituzionale, che cosa si può fare? Intanto un database, vedere cosa fare. Abbiamo parlato ma storicamente chi ci sono occupato di più o di meno? Sandra Zampa, che con noi era vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, diceva: l'ultimo grande programma è stato governo Prodi e Rosi Bindi. Io ho detto sì, però anche in questi 3 anni, quando si riacutizza la questione, insomma, i bonus non l'hanno avuta come priorità questa. Io ero contro i bonus a tempo, ma lasciamo perdere questo. Era solo per dire che a me sembra una cosa molto più estesa come mancanza di sensibilità della cultura politica, piuttosto che poi di responsabilità di parte, che pure esistono e non sono innegabili. Allora, ci eravamo fermati qua, Zamp. Allora, guardi, telegraficamente, questo governo ha prodotto finalmente, devo dire, anche, come dire, mi illudo che in qualche modo il nostro lavoro parlamentare abbia molto sensibilizzato, ma non è importante di chi è il merito, l'importante è che sia stato fatto un primo fondo di contrasto alla povertà educativa minorile. È un fondo importante, sono già stati fatti i bandi e funziona, diciamo, con un fondo messo con risorse di fondazioni bancarie, e al lavoro insieme a loro ci sono le grandi associazioni per la tutela e la promozione dell'infanzia. Si sta lavorando molto. Tra breve ci sarà un primo appuntamento, credo proprio nelle prossime settimane, per fare un bilancio. Il secondo provvedimento è quello del disegno della delega al governo per il contrasto alla povertà, che contiene provvedimenti proprio per le famiglie. Ma quest'anno non si può negare che con la legge di bilancio di quest'anno ci sia un inizio di cambio di marcia. Questo non è un fatto oggettivo, l'abbiamo più volte descritto anche ai nostri microfoni parlando delle novità di questa legge di bilancio 2017, tant'è che io mi auguro appunto che la tutela del bonus a tempo appartenga al passato, perché la coperta è corta, ma le priorità purtroppo vivono in questi drammatici numeri. Io ringrazio Sandra Zampa e tutti i componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia, ringrazio davvero, perché è un paese che non capisce che questo è un dramma, e secondo me è un po' in memoria di se stesso, è un pezzo fondamentale anche della curva demografica, ma non solo di questo. Qui stiamo parlando di ascensore sociale, di aree in Italia in cui la dispersione scolastica è intollerabilmente bassa, di una cosa che significa cultura della legalità che viene meno. Ne abbiamo parlato settimane fa, ricordate quella testimonianza di quella dirigente scolastica nell'Interland napoletano che ha fatto piangere molti di noi? Ecco, stiamo parlando anche di questo. Allora, è con noi, proprio per questo, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Campania, Cesare Romano, la cui testimonianza trovate più diffusamente sulla stampa di oggi. Grazie e buon pomeriggio di essersi reso disponibile. Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori. E infatti non è un caso che lei parlasse di dispersione scolastica in alcune aree della grande conurbazione napoletana come di uno dei problemi fondamentali di cui lei, con le scarsissime risorse che ha, si trova ad occuparsi. Sì, certamente. Ma diciamo che, guardi, questa crisi che stiamo vivendo ormai da qualche anno, e devo dire anche un po' di disattenzione, come lei accennava prima, politica, purtroppo ha acuito una serie di disagi, e dal mio osservatorio devo dire che li registro quotidianamente attraverso delle ricerche che stiamo conducendo, per esempio sulle aree degradate della regione Campania, perché chiaramente sono quelle che ci danno il segno di tutta una serie di disagi e di quanto incida chiaramente anche questa crisi. E devo dire che purtroppo ci sono alcuni fenomeni, tra cui la dispersione scolastica, tra cui un aumento delle baby gang, tra cui un gioco d'azzardo minorile, di cui purtroppo la regione Campania è la prima in Italia. Batte il record, purtroppo. Sì, purtroppo batte il record, ma anche dal punto di vista alimentare, come si accennava prima. Purtroppo non c'è prevenzione sanitaria, si comprano cibi spazzatura, e con bassissima base proteica. E questi sono tutti problemi che pagheremo poi in seguito in maniera molto forte. Posso chiederle fuori dai denti, perché molti dicono: vabbè, ma l'ufficio del garante a cosa serve? Il coordinamento, tanto non può coordinare, il potere di coordinamento tra autorità giudiziaria ed enti locali non ce l'ha, e quindi a cosa serve? Possiamo dare una risposta a chi ci chiede? Non è una superfetazione amministrativa inutile del suo ufficio? Assolutamente no, guardi, io credo di lavorare tantissimo per la promozione e la tutela dei diritti dei minori. Io le garantisco che mi arrivano tra le 150 e le 200 segnalazioni ogni anno di problematiche le più svariate. Comunque facciamo campagne, facciamo ricerche, cerchiamo sempre e comunque di portare nelle scuole, di portare ovunque ci siano aggregati di minori una sensibilità alla legalità e a tante altre motivazioni sociali che secondo me e civiche soprattutto che dobbiamo portare. No, le garantisco che il garante è fondamentale. È cosa sbagliatissima, sentivo prima, che qualcuno in alcune regioni cerchi di mettere insieme tutta una serie di figure, garante detenuti, difensore civico, in un'unica figura. Sbagliatissima. Lei che risposta dà alla domanda che ci siamo posti prima con l'onorevole Zampa, come mai la cultura politica italiana ha finito per chiudere un po' gli occhi di fronte a questo dramma sociale che riguarda chi ha meno anni? Guardi, prima cosa mi lasci soltanto un secondo per ringraziare l'onorevole Zampa per la legge su minori stranieri non accompagnati e anche il riconoscimento del ruolo dei garanti, quindi grazie. Sì, io le dico, io credo che la politica negli ultimi anni sia stata disattenta perché presa da altre problematiche, molto più urgenti, molto più forti. Ai suoi occhi però, perché io le devo dire, nel ringraziarla per quello che fa, lei e tutti i suoi colleghi, che a me poche questioni, poche, se ce n'è una, sembrano più urgenti di quello di 1,5 milioni di bambini in queste condizioni, nel nostro paese, nel 2017, cara politica in ascolto, in diretto o indiretto. Continuate su Radio 24, grazie ai nostri ospiti, appuntamento con Alessandro Mino domani alle 8:20, attenti a noi due.